vita è avere te, pensarti e saperti mia. Temevo di sbagliare io, e invece sei il mondo mio. E capisco perché se ti vedo esisto, non c'è gusto senza te. La vita è sapere che dovunque sei, dovunque vai, se hai dei perché o sei nei guai, mi chiedi aiuto se non ce la fai. E capisco di amarti non me l'hai chiesto, ma il mio posto è con te. È chiaro adesso, ora riesco ad essere me stesso. Nella vita tu sei mio successo, io che con l'amore non ci avevo preso mai, davvero mai. Sorta e scordarmi di me, guardarti sai mi calma già, quando alla fine qualche cosa non va. E capisco perché se ti vedo esisto, non c'è gusto senza di te. È chiaro adesso, ora riesco ad essere me stesso. Nella vita tu sei il mio successo, io che con l'amore non ci avevo preso mai. È chiaro adesso, quando litighiamo e sto nel giusto, quando dico vado invece resto, è perché son certo che con te la vita è. Hey, dal tuo sguardo non allontanarmi mai, perché voglio stare. Gesto, ma non solo per questo.